Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto degli studi, sette idee e noi siamo arrivati a questa decisione. Stiamo di qua a mutanda da fascia, pezzo di merda. Pezzo di merda. Te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E carissimi amici di Runtime Radio, ecco qua che appaio come un mostro nella notte qui su www.runtimeradio.it, la nostra web radio geek che da qualche tempo sta facendo queste sperimentazioni su Twitch, anche se devo dire che posso già fare una sorta di conclusioni, però diciamo tirare un po' le somme di questo mese, forse anche di più, che stiamo provando a streamare praticamente all'interno di questa realtà, di quelle che sono le fattibilità da un certo punto di vista e di quelle che sono poi le criticità, cioè quelli che sono i problemi più grossi, insomma, all'interno di questa realtà, che è poi da distinguere in diversi fattori, insomma, quindi distinguere un po' l'esperienza Twitch dall'esperienza YouTube relativa allo streaming, perché per quanto io pensi e continui a pensare che una web radio che è prevalentemente dedicata al talk show possa comunque in qualche maniera dedicare alcune trasmissioni anche alla condivisione, alla radiovisione, così come molti dicono, penso che però questa cosa non possa essere sempre applicata e in ogni contesto, soprattutto perché richiede un lavoro aggiuntivo. Primo è un discorso proprio strettamente tecnico, perché richiede un lavoro aggiuntivo, che è una cosa abbastanza significativa da un certo punto di vista, perché avere la gestione, aver preso dimestichezza con quello che è il sistema di regia radiofonico è una cosa, avere dimestichezza e preso insomma confidenza con il sistema di regia radiofonico più inserire un altro elemento, un altro layer di lavoro che deve essere contemporaneo, perché comunque quando tu poi fai partire una determinata cosa devono partire entrambe, quindi se devi fare addirittura un cambio di schermata o via dicendo, certo la cosa comincia a diventare veramente complicata se è un singolo soggetto che si occupa ovviamente di questo, a meno che non si semplifica tutto quello che è un po' il vario passaggio, i vari passaggi, così come abbiamo fatto in Runtime by Night la volta scorsa, e ne voglio parlare di questa cosa perché è un'esperienza che mi ha comunque fatto capire diverse cose, e dove siamo partiti così, nudi e crudi, grezzi, cioè nel senso che abbiamo dedicato più attenzione magari alla parte del video streaming e meno attenzione alla parte della parte web radio, e quindi conseguentemente in web radio noi siamo partiti così, nudi e crudi, senza sigla, senza niente. E a differenza invece questa mattina ho provato a fare questa ennesima sperimentazione dove mi sono messo a lavorare contemporaneamente su entrambe le cose, e più o meno più o meno, insomma, mi sono reso conto che è fattibile a un certo punto di vista, se ovviamente non devi stare lì a dedicare troppo attenzione su quella che è la parte video. E infatti in questo specifico caso mi sono concentrato molto di più sulla parte audio, cioè quindi su quella che è la regia radiofonica nuda e cruda, insomma. Tanto salutiamo Walter che sbadiglia come al solito. Approssimare sempre, dice giustamente Leo Varghion. Sì, sono d'accordo, anche se fino a un certo punto, nel senso che poi comunque uno deve cercare di fare il meglio di quello che riesce a fare nel contesto in cui lo fa, ma ovviamente sempre nei limiti delle proprie possibilità, no? Che è la cosa poi fondamentale. E ovviamente quello che appunto dicevo, ho capito durante queste settimane, è che purtroppo questa cosa non si può fare. E prendo anche un po' a modello quello che una radio che io seguo, che è Radio 6, perché è una radio dove parlano di sport, prevalentemente parlano di Lazio, dove anche loro praticamente utilizzano la condivisione, quindi l'interconnessione con Twitch, però praticamente loro hanno una telecamera fissa, tra l'altro di scarsissima qualità, tipo, sapete, quelle tipo le videosorveglianze, e che sta lì praticamente al massimo quando hanno delle connessioni, cioè hanno un collegamento in Skype, inseriscono in radio, questo dico, inseriscono il video di Skype anche sulla schermata, sennò proprio lì è tutto estremamente minimale. E in effetti io già stamattina, costruendo questa scena, quindi con me in un punto a destra, alla mia destra praticamente, non so come vedete voi, ci so, c'è un riquadro dove appariranno delle immagini che mi servono, la chat sempre più a destra, e qua sotto c'è addirittura il programma di regia per farvi capire un po' anche come funziona, anche se poi quando ci saranno i brani qui su Twitch ovviamente io li silenzierò per problemi di cui ovviamente vi vado a spiegare, insomma fra un po' vi racconto insomma tutto quello che è successo, anche perché è uno dei temi di questa puntata, poi ci saranno anche altri temi. E alla fine già costruire tutta questa impalcatura con tre scene, quindi la scena, lo streaming sta per partire, la scena con solo il titolo e la scena con questa composizione qua, che tra l'altro oggettivamente fa anche un po' schifo, però insomma intanto era una prova, perché sto utilizzando i software di streaming, non sto utilizzando le stream come utilizziamo tutte le volte, e tutti mi potreste dire ma che cazzo ha fatto fa, hai ragione, allora volevo provare un attimo questa cosa, anche perché più mi addestro anche in questi software più posso rendermi dipendente dai sistemi come le stream, che comunque hanno un costo, quindi paghi un costo di servizio, cioè l'agevolazione tecnica ovviamente comporta un esborso monetario. Comunque andiamo un attimo con ordine. Il primo grosso problema di questo tipo di attività che facciamo, cercando di portare ovviamente anche dei contenuti su Twitch per vedere se hanno senso poi tutto sommato, perché questo poi è un po' la grossa riflessione. Non hai la base di tappeto? Sì, lo so, ce l'ho, è molto bassa, ecco l'alzata un pochino voluto, sì, diciamo che cerco un attimo di capire anche questa cosa qui, di rimanere un po' ninja, diciamo, da sto punto di vista. E già sono abbastanza preoccupato per la sigla, devo dire la verità, perché all'interno della sigla ci sono dei contenuti copyright. Ma appunto questo è il primo punto fondamentale. Ieri sera, come vedete dall'immagine che ho messo qui, praticamente noi abbiamo fatto lo streaming con la ricondivisione del video praticamente dell'evento Apple, che è una cosa che hanno sempre fatto tutti su YouTube. Devo dire questa cosa un po' mi ha sorpreso ieri, anche se posso comprendere, però ieri un po' mi ha sorpreso, perché è una cosa che hanno fatto tutti, cioè tutti gli eventi live tipo le tre, insomma gli eventi di Colonia dei videogiochi, i state to play di Sony, robe genere, spesso vengono ristreamati dai, insomma, dai grandi streamer italiani e commentati in tempo reale. Quindi non è che noi abbiamo ritrasmesso integralmente la trasmissione, l'abbiamo ritrasmessa con un volume basso dove eravamo noi comunque che facevamo i commenti. E ieri praticamente è arrivata una segnalazione di copyright su YouTube, che è la seconda segnalazione di copyright su YouTube, che equivale al primo avviso, al primo avvertimento serio di YouTube, che significa che per una settimana noi non possiamo né pubblicare video né scrivere post, cioè nel senso su YouTube, non possiamo generare attività, contenuti su YouTube. questo sul canale ovviamente di Runtime, è un po' una sorta di canale che sta lì a tanto abbozza un pochetto, vedi quello che succede, nel senso se li proviamo o poi se non te la prende. E, però devo dire che questa volta un po' mi ha scocciato, perché avendo commesso già questo errore non mi aspettavo questa reazione immediata anche su questa situazione qui, sebbene comunque se doveva essere era sicuramente la prima che doveva reagire era YouTube, perché YouTube rispetto a Twitch, che hanno comunque più o meno le stesse regole da questo punto di vista, YouTube è molto più reattivo, cioè nel senso segnala immediatamente tramite ovviamente tutti i suoi sistemi la live con contenuti protetti da copyright e ti blocca la live e cancella immediatamente tutto il contenuto, cosa che però finora Twitch non ha mai fatto. Ovviamente questo mi fa pensare che dipende anche dal livello di copyright che tu vai a offendere, perché anche lì, cioè nel senso il copyright, sì, bello il copyright, però probabilmente c'è copyright che è più copyright dell'altri, insomma, cioè tipo Apple evidentemente da questo punto di vista deve essere tipo untouchable, ecco, insomma questa è la cosa più ma l'avviso che hai messo ieri sera era di Twitch, esatto, infatti proprio di questo stavo parlando, perché comunque il primo avviso che è arrivato immediatamente è quello di YouTube, che è arrivato durante lo streaming, che era lo stesso avviso che abbiamo ricevuto l'altra volta quando abbiamo fatto lo streaming di Astroganga, soltanto che questa volta la dicitura "in questa occasione non succederà niente al tuo canale" è stata sostituita "questo va considerato come primo avviso ufficiale, quindi pertanto per una settimana non potrai fare queste cose qui". La cosa che mi ha sorpreso invece è l'avviso che è arrivato da Twitch, e lì mi scoccia un po' di più, perché perdere, diciamo, comunque la pubblicazione su YouTube su un canale che non è gestito, non è frequentato come quello di Runtime su YouTube, mi frega fino a un certo punto. Perderlo invece, perdere insomma queste, avere un avviso che equivale comunque a una prima allerta, quindi un pre-ban praticamente, fondamentalmente al terza segnalazione c'hai il ban permanente su Twitch, insomma non è che ci vanno tanto delicati, insomma questo mi ha scocciato molto di più, perché non me l'aspettavo, ma comunque no, e invece alla fine è arrivato con la stessa garbata violenza con la quale ovviamente ha scritto anche YouTube, facendo insomma riferimento al fatto che comunque quello che stavamo facendo è una cosa illecita e che tutti i contenuti sono stati bloccati e rimossi completamente anche dall'archivio, quindi cioè nel senso se non fosse il fatto che noi abbiamo fatto quella diretta tramite Restream, quindi facendo un ponte di streaming, probabilmente noi quel contenuto non ce l'avremmo neanche avuto più, neanche come archivio, insomma, quindi questa è una cosa che veramente mi turba, questa violenza insomma così importante, perché ecco la considero abbastanza importante come tipo di violenza, e quindi niente, cioè nel senso alla fine da YouTube te lo aspetti in qualche maniera, perché sai che comunque la loro vigilanza è veramente costante e attenta su una piattaforma meno raffinata da questo punto di vista come Twitch, invece in realtà te l'aspetti un po' di meno, perché comunque secondo me non soltanto loro sono meno raffinati dal punto di vista della ricerca, ma secondo me diciamo lasciano anche molto correre, proprio in virtù del fatto che alla fine comunque vanno incontro, diciamo, agli streamer. Poi dopo alla fine se tu superi determinate soglie, se arrivano delle segnalazioni o vi dicendo, perché poi c'è anche da tenere in considerazione questo, che secondo me comunque quando tu fai una cosa che non dovresti fare e l'altro dicono "perché tu lo fai e non lo posso fare", arrivano anche le segnalazioni. Comunque questa cosa del copyright è un problema serio, e secondo me è una cosa del tutto incompatibile con quello che facciamo noi come web radio, chiaramente, perché anche quando facciamo i talk show, a meno che non è Quando Eravamo Futuro, a meno che non è Archeologia Informatica, a meno che non è OGM ad esempio, anche se comunque abbiamo deciso di non dedicarci da quel punto di vista, Quindi quei talk show monolitici da quel punto di vista, che non hanno contenuti particolari all'interno, diciamo che diventa veramente un problema. Perché ad esempio Book stesso, che comunque io utilizzo dei brani, anche se Creative Commons, anche se non copyright, anche se quello che vi pare a voi, utilizzo dei brani che mi servono comunque anche per spezzare, no? Per creare un attimo una pausa tra quello che dico, per creare un capitolo, anche per far dar tempo, insomma, la possibilità di bermi un bicchiere d'acqua e di fare tutto questo, insomma. Quindi ecco, diciamo che ci sono alcune cose che sono indiscutibilmente totalmente incompatibili. Poi c'è da capire se ci sono dei sistemi, dei trucchi come utilizzano gli altri, e ci sono sicuramente, che però poi bisogna vedere quanto valgono e soprattutto quanto vale la pena, perché con una prima segnalazione importante su YouTube e con una prima segnalazione su Twitch, fare ulteriori sperimentazioni da questo punto di vista comincia a diventare un po' un problema, no? Cioè, chiaramente, secondo me diventa un po' una questione, diciamo, decidi che a quel punto quel canale, se te lo segano, non te ne frega niente. Però invece secondo me qua la cosa diventa interessante, perché secondo me alcuni contenuti, alcune cose vanno continuate in questa direzione, anche se secondo me non è Twitch la nostra piattaforma, perché Twitch è una piattaforma dedicata alle persone che streamano tutti i giorni e che dedicano il loro tempo, quindi evidentemente è tipo come se fosse il loro lavoro, a streamare tutti i giorni quelle 4-5 ore facendo compagnia ai ragazzini, i quali si abbonano al tuo canale e ti danno dei soldi, quindi ti pagano per fare il pagliaccio fondamentalmente. Noi invece il nostro obiettivo è quello di creare contenuti, di creare qualità da un certo punto di vista, soprattutto al di là dell'intrattenimento, soprattutto con programmi come archeologia informatica, creare qualità per noi è importante. Quindi avere un Twitch anche di archeologia informatica sì, ci interessa fino a un certo punto, ma avere lo YouTube di archeologia informatica per noi è fondamentale, e aver iniziato a fare le live anche su archeologia informatica su YouTube per noi è una cosa che ha portato dei risultati. Quindi quello che noi abbiamo capito è che Twitch non è la nostra piattaforma, anche se continueremo a streamarci così occasionalmente, durante appunto trasmissioni che sono compatibili con lo stream su Twitch, però la nostra piattaforma è YouTube. Quindi andare su quella piattaforma che, messa in quelle determinate condizioni, su quel canale che già c'ha una monetizzazione e che comunque c'ha tutta una serie di setup, c'ha già un seguito, roba del genere, comunque andare live è sempre utile, perché la gente è comunque attratta dalle live e è anche invogliata a fare le donazioni, e quindi quello può essere il nostro compito. Quindi fare delle dirette che siano funzionali a degli argomenti e non avere un canale Twitch che è quello che ti costringe ad andare live tutti i giorni, e non soltanto ti costringe, perché comunque così funziona la piattaforma, ma ti invoglia, anzi costantemente ti incentiva a fare questa cosa, perché ti dà tutta una serie di obiettivi che tu a un certo punto dici: vabbè, ma io posso tranquillamente fregarmene degli obiettivi, sì, però poi alla fine comunque ce l'hai lì davanti, un po' la sensazione di volerlo fare ce l'hai, insomma. Quindi mo ci ascoltiamo un brano qualsiasi sia esso, e poi ritorno. You remember when we were out last week? I met this girl. Yeah. What about it? Well, she blocked me on Tinder. What? 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rump, bump, bump, bump. Huh. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around. In my head, I can't let go. No. That's all I think about her. What did I do wrong? What did I do wrong? Ooh, I like it, baby. Oh, why won't she date me? Did you remember what happened? Right. So tell me, what's it your face plans when you put your hands in her pants? Or maybe when you hit the garden, beating that car, kept acting like a rock star. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you act like Ecco, altro aspetto importante, adesso che ritorno, che giustamente Leo, anche se adesso cambiamo argomento, mi ha scritto nella chat di Telegram di Runtime Radio, dice: hai silenziato tu? Sì, ho silenziato io, ed è un altro layer di impegno, cioè nel senso comunque è una cosa in più che fai, anche se tu dici in teoria queste qua dovrebbero essere canzoni Creative Commons o libere perché tu hai pagato la licenza e quindi potresti anche tranquillamente fregartene e continuare a streamare anche la musica perché non è Michael Jackson, diciamo così. Ma anche qui io mi sono reso conto che ci sono delle problematiche non indifferenti, perché anche quando tu vai su Envato, su Audio Jungle, per capirci, ma sono abbastanza convinto che anche con Epidemic Sound questa cosa succeda, e alla fine quando tu vai in questi cosi compri o compri il brano oppure fai un fai un abbonamento, e questo abbonamento, quando tu fai l'abbonamento, ti dice dove utilizzerai i tuoi contenuti, gli dai comunque le indicazioni, no? Quindi lui probabilmente, se tu metti, che ne so, un canale YouTube ad esempio, lui dà a YouTube l'informazione che quei brani con quelle licenze per quel periodo di tempo, poi questo è ancora più importante, possono essere monetizzati in quanto l'utente sta pagando un abbonamento in licenza. Quando scade l'abbonamento, alcuni di questi servizi ripristinano il loro diritto di monetizzazione sul tuo video, e questa è una cosa scorretta, se voi ci pensate, oltre ad essere una zozzeria infinita, comunque un sopruso poi alla fine, perché se andate a vedere comunque si tratta sempre di un te contro loro, cioè nel senso alla fine, perché io comunque quel brano l'ho pagato, ok? Con i brani Audio Jungle è ancora peggio, perché loro ti dicono: sì, sì, tu lo puoi utilizzare il brano, però se tu ce monetizzi, io il brano te l'ho venduto a 30 euro, per me il brano vale 500, e quindi se te lo do a 30 euro, se tu ce monetizzi, i soldi mi prendo io. E qui c'è un ulteriore livello dove YouTube ti permette di condividere contenuti copyright, qualora sia concesso anche dai gestori del copyright stesso del brano, di quello che è. Però poi ti dice: sì sì, tu puoi tranquillamente, al tuo canale non succede niente, il tuo video rimarrà tutto a posto, stracondiviso, però l'eventuale monetizzazione di questo video andrà a Tizio, che poi Tizio significa qui almeno 15 società di gestione del copyright. Quindi voi immaginate che questi soldi se sparpagliano in un oceano di merda. E questo è anche seria come tipo di problema, perché non è che ti dice: però parte dei soldi li diamo a loro, no, proprio tu non conti più un cazzo. Dice Leo: beh, a me queste hanno fregato pure mettendole su YouTube, quindi hai fatto bene. Sì sì, no, ma infatti, cioè, mi sono accorto che c'è questo problema, perché dei brani di Epidemic Sound nel periodo in cui noi eravamo abbonati, siamo stati abbonati per 5 mesi, non è una cosa, li ho messi in un video e fortunatamente il video era in bozza, quindi non è andato in pubblicazione. Questo è stato importante per me, e quando ovviamente loro finiscono l'analisi dicono: guarda, c'è questo problema, tu se lo condividi tutto bene, tutto a posto, siamo amici, comunque non ti succede niente, però i soldi vanno a questi. E no, il cazzo, chi te se incula, cioè, detto come dicono i francesi, insomma, no? Tu hai pagato, ma l'algoritmo mica lo sa. Sì, lo sa, perché tu al sito web indichi la posizione di utilizzo, cioè loro te lo chiedono. Su Epidemic Sound c'erano alcune cose su YouTube, sui podcast, che tu gliele indichi, tu gli dici: guarda, noi siamo qua. Poi tra l'altro io i podcast non gliel'ho indicati, perché secondo me poi dopo subentra l'effetto, quello che si chiama una morta, l'effetto SIAE, cioè la SIAE se non sa che tu esisti non gliene frega, anche, ma se lo sa che esisti ti viene a romper cazzo un giorno sì e l'altro pure. Quindi c'è questa cosa qua. Quindi loro ti indicano, e tu quando in quel periodo di licenza tu li puoi usare quei brani e li puoi monetizzare, come tu smetti di pagare. Questo io parlo di Epidemic Sound. Invece coloro che paghi soltanto il brano, proprio lì il problema non si pone. Tu c'hai il file TXT con la licenza, ma non vale un cazzo, fondamentalmente. Cioè tu dovresti fare l'opposizione a YouTube e mandargli il file per fargli vedere, però poi entri anche lì un meccanismo, insomma, che anche sti cazzi, no? Cioè a un certo punto. Comunque, volevo dire che il secondo tema fondamentale oggi, ritorno a parlare di una cosa che un nostro utente un po' mi ha detto, ma non è che ci stanno i zozzoni stanno dappertutto, è tutta una questione di coscienza individuale. In realtà sul discorso dell'edilizia, e qui io non faccio più una questione regionalistica, perché sicuramente sono dei posti dove è peggio, ci sono delle persone o delle realtà molto più virtuose, io non, questo non lo posso e non lo voglio discutere, però diciamo che in generale quando si tratta di edilizia lo zuzzume è imperante, no? Lo è con gli appalti, lo è con le agevolazioni, lo è con i bonus, lo è con tutto quello che ovviamente lo Stato mette a disposizione in favore di e in favore e a fronte di, cioè in favore di quelle aziende che comunque possono mettersi in movimento e lavorare, quindi ricreare movimento, e in favore anche di ristrutturazioni, sistemazioni, miglioramenti delle condizioni di vita, dell'eliminazione dello spreco energetico e di tutto quello che ovviamente ne consegue. E quindi che succede? Succede che ritorniamo a parlare ancora una volta di questa cosa dei bonus, dato che io avevo parlato di questa cosa quando parlammo della caldaia, no? Del fatto che una caldaia di 1500 euro improvvisamente anche su Amazon, quindi non è solo Amazon, dipende, quello magari è uno zozzone, no, è proprio sistemica sta cosa, non mi potete venire a dire, però io non lo faccio, l'arti sono zozzoni, tu non lo fai, sono sicuro, ma questa cosa è più sistemica di quanto tu voglia ammettere, perché se io ti dico che una caldaia che sei mesi prima del bonus costava 1500 euro, col bonus improvvisamente costa 4000, io dico c'è qualcosa che non va, che poi continuo a dire che è sempre contrologica sta cosa, perché tu a quel punto non è che dici c'è lo sconto del 50% ma io te la faccio pagare uguale, e vabbè, ma inculato, pazienza, te la faccio pagare tre volte di più, una cosa che non c'ha senso. Il che significa che questa gente, questo sistema, sa che in questo tipo di discorsi, fatta la legge, non ci stavano i controlli. E ritorno sempre a di quella famosa volta in cui con Michela ci fermammo sull'accordo anulare perché stava più nevicando in una maniera incredibile, ci fermiamo a un autogrill, c'era il negozietto e le catene costavano 160 euro. Che era veramente da fare un casino, da fare un macello, spacca tutto. Chiamai i carabinieri, strillà come un pazzo. Perché io sto a tornare a casa rischiando la vita e tu una cosa di 30 euro me la vendi 150. Perché sei una merda. Ma non è neanche la legge della richiesta, la necessità di cose, tutte queste stronzate qua. Perché io posso capire che tu una cosa di 30 euro me la vendi a 50. Ma non che una cosa di 30 euro me la vendi a 160, sei una merda. Perché non c'è controllo? Perché te lo fanno fa. Perché io non posso pensare che tu stai lì e rischi pensando che magari mo fra un po' entra un vigile così per caso, perché può succedere. Se lo fai è perché lo puoi fare, è perché sta cosa è sistemica. E la stessa cosa per quanto riguarda sta cosa dei bonus del 110% per le ristrutturazioni, per i cappotti termici, per le agevolazioni energetiche, per tutta sta roba qua, che, e qui ritorniamo sempre al discorso sistemico, ogni volta, a parte c'è stato tutto un discorso dei procacciatori, improvvisamente le agenzie immobiliari procacciavano, le agenzie di assicurazioni procacciavano, tutti a procacciare gente che faceva le ristrutturazioni al 110 de bonus, no? Quindi ci prendevano le provvigioni. A un certo punto si è scatenato un mare di merda su sta cosa che neanche ve lo immaginate. E poi che succede? Succede che quando tu riesci a fare un accordo con l'azienda e ti deve fare i lavori e ti dice mo a maggio vengo, iniziamo a fare i lavori, e il giorno prima di maggio del 2010, sì, però purtroppo per adeguarsi al 110% dovete pagarsi 80.000 euro per adeguarvi a quelli che sono i problemi che purtroppo voi ci avete e che non sono compatibili con la richiesta. Io immagino che ci sia una parte di verità in questo, ma diventa un ricatto. Cioè, dammeli i soldi con i quali in parte io ci apro pure il cantiere, se no io il lavoro non te lo faccio, fondamentalmente. A te prima o poi ti scadrà sto bonus. Loro parzialmente ci perdono forse un lavoro, parzialmente, però loro puntano ad averci i soldi subito in mano, in contanti, e noi sti conti li abbiamo rifatti fa 5 volte in questi. Guardate che non può essere. E infatti loro, cioè, questa qua, cioè non, ma poi di la ringhiera del balcone mi viene a costare 10.000 euro. Ah no, avete ragione, ma rifacciamo. La ringhiera costava 300 euro, poi ricaricavano da un'altra parte, sempre 80.000 euro erano. Poi c'è chi chiaramente abbozza e dice vabbè, mandamogli, perché? Ma denunciamoli, perché sono 3 mesi che dovevano iniziare i lavori e non l'hanno iniziati, perché vogliono dei soldi, non solo il bonus, vogliono dei soldi, li vogliono da te i soldi, vogliono guadagnare di più rispetto a quanto è previsto dalla legge, che già li agevola. È una cosa insostenibile sta cosa, ragazzi, io non lo so come la vedete voi, ma veramente è uno schifo incontrollato. Allora, vedo che in chat non dite niente, vedo che Alex si scusa per quello che è successo ieri nella nostra chat privata. Vabbè ragazzi, non è, cioè, no, è successo, nel senso, abbiamo fatto pure noi queste cazzate, quindi facciamo che ci ascoltiamo un pizzico di musica e poi alla via così col prossimo argomento. Ciao, sono Giacomo e volevo salutare tutti gli amici e le amiche di Runtime Radio da Copenaghen. Smile. I think I love you for, 'cause I don't second guess and I don't question it at all. I think I love you before, 'cause I don't care that I'm alone. belli di casa, ritorniamo qui in diretta su roundtimeradio.it, la web radio geek, la web radio di tutti noi. Fatemi sapere se su Twitch ci hanno bannato ancora una volta. Allora, mio fratello sta cercando di farsi casa ed è davvero un macello. Scusate, alzo la base. Costo 110. Devi seriamente andare ad accedere 1000 ceri alla Madonna. Sì, guarda, ma il problema è che il sistema è stato anche semplificato. Cioè, non è una cosa così inaccessibile. Il problema è sempre l'approccio, no? Cioè, nel senso, è l'onestà. De fondo, se c'è o non c'è, e quando l'onestà non c'è da parte di un individuo, è un problema relativo. Quando il problema, quando invece non è, la disonestà è sistemica, lì diventa un problema serio, insomma, fondamentalmente. Comunque, voi sapete che i campioni d'Europa si scontrano praticamente con i campioni d'America in una sorta di super finalissima del 2022, che poi a questo punto, voglio dire, essendoci altre due federazioni, fate un quadrangolare, se così diventa pure più divertente. Tanto oramai state a fare partite a prescindere, no? Nel senso, se gioca ogni 2x3, considerando che quest'anno sarà un anno terribile da questo punto di vista, perché c'è anche il campionato mondiale in mezzo. Però comunque la cosa bella è che c'è sta questa finalissima tra Italia e Argentina, una cosa assolutamente prestigiosa. La finale era Wembley, non si sa per quale ragione è stata decisa questa cosa qui, e quindi immaginate, insomma, tutti i tifosi inglesi come, insomma, come fossero ben predisposti a tifare Italia. Ma al di là di questo, che insomma ce ne frega fino a un certo punto, e insomma la partita è stata molto combattuta, molto tirata. La dimostrazione che il calcio argentino e il calcio italiano sono alla pari, fondamentalmente, cioè nel senso, anzi, se non fosse per il fatto che ci hanno battuto 3-0 mentre che si asciugavano la bocca dopo aver bevuto un boccale di birra, insomma, potevamo giocarcela. È stata una cosa tristissima, cioè, io non l'ho vista la partita. Ogni tanto accendevo su replay, così per curiosità, vedevo che succedeva e segnava l'Argentina. Questa cosa è successa 3 volte, non scherzo, cioè nel senso. E questo di fronte anche alla seconda non qualificazione a un campionato del mondo consecutiva, che e uno ci scherza, ma per una nazione come l'Italia, che ha un'importanza calcistica, insomma, non indifferente, e in un contesto sociale anche particolare, dove io penso che il pane circensis comunque funziona, una cosa antropologicamente importante, perché comunque fa parte della nostra indole, fa parte della nostra storia, per quanto ci possa stare sul cazzo, per quanto magari alcuni non vogliano contribuire a questo meccanismo, e ci sta, cioè, perché comunque non è che a tutti deve piacere il sistema o il meccanismo. Però la Formula 1, il calcio, il basket, il football americano, sono tutti quei circensis che aiutano praticamente alla gente di spezzare in qualche maniera, di concentrare le proprie energie, le proprie emozioni in una cosa un po' diversa da quella che è la quotidianità, i problemi, il clima, il pianeta che tra poco ci ucciderà tutti, le guerre mondiali e tutte queste cose qui che insomma non fanno mai piacere a nessuno, diciamo, no? E quindi ci sta, io continuo a dire che ci sta, però purtroppo poi alla fine una volta si diceva che noi vedevamo l'identità nazionale soltanto con il pallone, no? Oggi questa cosa dell'identità nazionale in Italia è un po' sfuggita di mano, perché non siamo abituati, non fa parte della nostra cultura. Cioè il patriottismo fine a se stesso, così come lo chiama Meloni, il nazionalismo, alla fine non fa parte della nostra cultura, non è nel nostro gene, non ci appartiene. E l'unica maniera per sentirsi un po' accomunati, appunto, era questa cosa del calcio, magari, o dello sport in generale, no? E lo sport praticamente comunque in qualche maniera ci dava una sorta di dignità, di partecipazione, di esserci all'interno del mondo globale, no? Perché? Perché avevi una realtà calcistica importante, perché hai vinto 4 volte il campione del mondo, 5 volte, non ti cazzo volte l'abbiamo visto, manco mi ricordo più. E quindi sei, cioè, sei una nazione rilevante da quel punto di vista, sei una delle tre nazioni più importanti della storia del calcio, poi fondamentalmente. E questo chiaramente c'è una ricaduta, no, sul fatto che in questo momento noi stiamo vivendo questa crisi calcistica veramente importante, che è una crisi calcistica che è politica, che è sistemica, perché vedevo delle statistiche ieri, l'Italia, il campione italiano, è il campionato con il maggior numero di stranieri a livello europeo, se non globale, ovviamente europeo in particolare, ma globale. Perché oltre il 60% delle rose delle squadre di Serie A sono stranieri, e i giocatori che vanno in campo, ancora peggio, oltre l'80% dei giocatori che scendono in campo sono stranieri. E questa è una cosa importante, perché chiaramente è il sistema che si distrugge dall'interno, dove ovviamente i giocatori italiani costano, anche se oramai la qualità è scarsa, e quindi i presidenti preferiscono andare a comprare all'estero perché ti danno il pacchetto a poco prezzo, e perché essendoci anche delle incentivazioni fiscali, alla fine quel cartellino tu lo vai a pagare, o quello stipendio tu lo vai a pagare la metà rispetto a quanto pagheresti una persona, cioè un calciatore, un professionista che tu prendi in Italia. E questo succede anche nelle squadre primavera, ma anche nelle squadre ancora più giovani, cioè nel senso, più vai in profondità e più continui a trovare stranieri laddove non li trovavi. Di per sé questa cosa non è un problema oggettivamente, perché in un contesto europeizzante, globalizzante, ci sta che comunque i lavoratori siano condivisi, che non ci sia più questo limite, questa barriera, tu sono italiano, allora c'ho il posto di lavoro, sono austriaco, allora no. È che qui dobbiamo capire un attimo un po' come funziona il discorso. O il calcio da questo punto di vista va riformato, non esistono più le nazionali, perché non esistono più i movimenti calcistici nazionali, ma esiste un movimento calcistico più globale. Allora se vanno delle nazionali che contengono, o delle squadre di lega, diciamo così, che contengono i giocatori che giocano in quella lega lì, quindi bypassare un po' questa cosa del nazionalismo, della nazionalità, ecco, della squadra nazionale, andare un po' oltre da questo punto di vista, che secondo me potrebbe essere una soluzione. Oppure si lavora seriamente sul calcio, cioè impedendo ovviamente alle squadre di comprare giocatori esclusivamente all'estero, e cercando ovviamente di incentivare il settore giovanile anche dal punto di vista calcistico, no? Però il problema è che le leghe, le federazioni, il CONI o comunque i comitati olimpici nazionali, alla fine si trovano di fronte a una situazione un po' particolare, che è quella di fronteggiare la necessità di iperprofessionalizzare e iperspettacolarizzare gli sport, quindi ovviamente di seguire un po' il modello americano, cercando di contrastare tutti quei progetti alternativi tipo Superlega o roba del genere, e dall'altra cercare di mettere delle regole, o far finta di mettere delle regole. E qui c'è quest'uomo, no? Questo grande uomo, questo genio, che oggi ha intrapreso una battaglia senza quartiere, che ovviamente porterà a un'ulteriore scissione, a un'ulteriore spaccatura nel mondo del calcio in Italia, e che non si rende conto, perché l'arroganza e la presunzione alla fine prende il posto dell'utilità della specifica persona, no? Perché questo scontro sull'indice di liquidità è ridicolo, perché tu metti l'indice di liquidità non soltanto per fare calcio mercato, ma anche per iscriversi al campionato. E l'indice di liquidità è un indice che permette, tra costi, stipendi e costi dei cartellini, di avere un determinato fattore che ti permette o non ti permette permette o non permette ovviamente alla Lega di valutare se tu sei nelle condizioni di poter fare ulteriori movimenti senza incappare in problematiche di stipendi o cose del genere. Ma questo a favore di chi va? Va a favore di tutte quelle squadre che in bilancio hanno 200-300 milioni di debito, Però poi lì per lì, in quella singola sessione di calciomercato, di iscrizione al campionato, immettono 20 milioni, 30 milioni, sistemano l'indice di liquidità e vanno avanti. Quindi ritorniamo un'altra volta al discorso: a chi stava a fare il favore? Stava a fare il favore all'Inter, che ha vinto lo scudetto con 7 mesi di stipendi arretrati? Sì. Stava a fare il favore alla Juventus, al quale il calcio si è completamente schiacciato, si è completamente assoggettato a, come posso dire, appecoronato, semplicemente perché la Juve doveva essere la potenza economica in Italia e tutto il resto doveva essere spazzatura, perché doveva rappresentare l'Italia e vincere le coppe dei campioni. Quante coppe dei campioni ha vinto negli ultimi 10 anni la Juve? Insomma, vabbè. Stiamo sempre un po' a fare gli stessi discorsi, però a me fa ride perché, insomma, Gravina poi veramente, io penso che prima o poi anche lui farà una brutta fine, però brutta fine nel senso politico, chiaramente. Scusate ragazzi, non bevo il caffè. Però c'è Willy. Perché Willy è una buona notizia? Non perché Willy è un fenomeno calcistico, non perché Willy adesso se lo vogliono accaparrare tutti, non perché Willy è il futuro del calcio italiano, non perché Willy è negro, ma semplicemente perché sto ragazzo ha rinunciato all'Inter per andare a giocare a calcio in Svizzera, dove poteva concentrare le proprie attenzioni allo studio, al latino, alla lettura. Un ragazzo che gioca a pallone e che è arrivato in nazionale grazie a Mancini, perché comunque ha voluto provare a lanciarlo, con una proprietà di linguaggio, sa quello che dice, conosce la sintassi, la grammatica, è in grado di sviluppare dei pensieri articolati. È una cosa incredibile, non è possibile, no? Come può essere? Questo che fa il calciatore. Calciatore professionista, in un contesto diverso, in una scelta di vita che lui ha fatto, e poi gli hanno detto: ma è stato facile arrivare a Coverciano? Beh, quando sono arrivato, in realtà qui erano tutti, si conoscevano, io non conoscevo nessuno, del tipo, all'inizio non si inculava nessuno, perché eri troppo intelligente, Willy. Alla fine, se ci pensi, tutta questa cosa che comunque in qualche maniera ti sei sentito un po' penalizzato da sta cosa, secondo me per te dovrebbe essere un vanto. Ecco che cosa potrebbe essere. Ciao, sono Roberto. Un grosso saluto agli amici di Runtime Radio. We'll be right back. Vabbè, belli di casa. Io direi che sono ai 55. Vi ricordo, insomma, che questa è Runtime Radio e che questa è Buongiorno un Cazzo, che oggi siamo abbiamo fatto questa sortita su Twitch e che vediamo, insomma, se continueremo a farlo. Continuerà il nostro dibattito interno, cercare di capire con la maggiore semplificazione possibile quali trasmissioni ha senso mandare in streaming e quale in video streaming, chiaramente, e quali trasmissioni continuare a portare soltanto esclusivamente su sulla radio, anche perché per esempio Runtime by Night secondo me perde molto, guadagna da un certo punto di vista ma perde molto su Twitch o su, insomma, su video streaming, e probabilmente sarà il primo programma che tornerà ad essere esclusivamente in radio dopo OGM, chiaramente. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che domani mattina torna Leo dalle 7 con il Libro Game, che questa sera alle ore 20 torna Walter Sbano con l'Orazione della Sera, quindi martedì, mercoledì e giovedì, che giovedì sera ci sarà la puntata, torna Quando Eravamo Futuro, con la puntata dedicata ad Alfredino, il grande incidente, al brutto, triste incidente che ha unito e commosso tutta l'Italia. Tra l'altro, come sapete, una coincidenza abbastanza particolare, abbastanza macabra, ma vi assicuro assolutamente non voluta, perché noi questa cosa l'avevamo annunciata già tanto tempo fa, che insomma qualche giorno dopo averla annunciata abbiamo saputo, insomma, dell'atto di profanazione che è stato fatto, e io penso che siete delle merde, l'ho già detto ieri e continuerò a dirlo. Penso che la merda vi perseguiterà la vita, la vostra anima, il vostro cervello, le vostre relazioni umane e per tutta la vita, perché nella merda siete nati e nella merda dovete morire, perché io penso che solo le persone così possano arrivare a pensare soltanto di fare un gesto del genere. Quindi alla fine è veramente un momento che andrebbe cancellato, spazzato via, assolutamente. Detto questo, quindi giovedì sera ore 21:30 parleremo appunto della storia drammatica di Alfredino, di quello che ha rappresentato per l'Italia, di come ha cambiato anche la nostra percezione degli eventi, dei media, e come alcune situazioni, in un momento in cui c'era ancora una sorta di ingenuità sociale, erano in grado di creare anche della bontà nell'insieme, ovviamente, perché se immagino cosa sarebbe stato oggi se fosse, cosa sarebbe stato se fosse successa oggi questa cosa, con gente che avrebbe approfittato per fare delle polemiche, per apparire, per stare al centro dell'attenzione e via dicendo. Allora c'era molta più discrezione, si era concentrati sul momento del dolore, sul momento dell'attesa, sul momento dell'ansia, sulla speranza che questa cosa andasse bene. Bene ragazzi, vi ricordo invece che mercoledì mattina esce Ipocrisy con la nuova puntata, perché doveva uscire una settimana sì, una settimana no, ma alla fine le interviste sono talmente tante che alla fine esce praticamente tutte le settimane. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e buona giornata a tutti, e mi raccomando, buongiorno un cazzo.